GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Sì ai tifosi interisti a Parma, no a quelli romanisti a Catania. La decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive accende le polemiche in vista di Parma-Inter e Catania-Roma di domenica, ultima giornata di A, decisiva per volata scudetto e corsa salvezza. Domani nuovo vertice a Roma. Il presidente dell'Osservatorio, Felice Ferlizzi. Per i romanisti non c'è la possibilità di andare a Catania. Quindi, come dire, se quella partita ha delle pericolosità proprie e l'altra no, oggi purtroppo la situazione è questa. Siamo aperti a qualsiasi ulteriore significativo contributo per vedere se possiamo ritornare su giovedì. Noi abbiamo un'altra riunione dell'osservatorio, continuiamo a lavorare tutti i giorni. Intanto si prova a pensare anche al calcio giocato. Il tecnico etneo Walter Zenga. Loro dipendono da un altro risultato. Noi, se noi facciamo il risultato, siamo salvi, se loro fanno il risultato non è detto che hanno vinto. Quindi voglio dire, c'è una sorta di differenza di base, soprattutto in partenza. Il campo mi sa che ci deve essere il dottore di fianco a me, perché a fine partita mi ricoverano a me. Questa è l'unica cosa che di sicuro c'è. In casa Inter, silenzio stampa e Mancini impegnato nel recupero di Ibrahimovic, che potrebbe scendere in campo a Parma. Intanto in Coppa Italia, 3 turni di squalifica a Cruz con la prova TV e 2 a Materazzi, che salteranno così la finale proprio contro la Roma. Tra gli emiliani, invece, primo giorno di lavoro per Andrea Manzo, il tecnico subentrato a Cooper. Sul fronte mercato si muove la Juventus, che allunga di un anno il contratto di Nedved e fissa i paletti col Palermo per la trattativa a Mauri. Il presidente bianconero Cobolli Gigli. Ci siamo sentiti parlare di Giovinco come una delle possibili pedine che potevano entrare nell'accordo a Mauri. Zamparini ha espresso il suo apprezzamento e il suo interesse ad avere Giovinco. Noi gli abbiamo anche detto che Giovinco vedevamo molto difficile poterlo mettere in questo pacchetto di trattative, perché ce lo vogliamo riportare a casa. E oggi a Manchester, finale di Coppa UEFA, a sfidarsi lo Zenit San Pietroburgo e i Rangers Glasgow, che in semifinale hanno eliminato la Fiorentina. E ora il Giro d'Italia. Prosegue oggi la lenta risalita lungo la penisola, quinta tappa, dalla Calabria alla Campania, da Belvedere Marittimo a Contursi Terme, con un arrivo tutt'altro che facile, scontato dopo 203 km di corsa. Dopo 2 giornate di sprint e cadute, con una frazione da non prendere sotto gamba, in maglia rosa questa mattina parte sempre Franco Pellizzotti, da 3 giorni leader della corsa, che sente però il fiato sul collo. L'arrivo di Contursi in leggera salita è adattissimo ai corridori scattanti come Danilo Di Luca, che è lì a soli 7 secondi. Pellizzotti sente odore di agguato, di Luca, di rosa. Piergoso stagio GR24 sulle 24 ore, Belvedere Marittimo. Per il basket, vittorie per Avellino e Cantù nelle gare 2 dei quarti di finale dei playoff. Gli Irpini hanno vinto a Capo d'Orlando 96-86 e ora sono sul 2-0. Cantù invece ha portato sull'1-1 la serie contro Roma, vincendo 75-73. Oggi in campo per gara 3 Siena Fortitudo Bologna, con i toscani in vantaggio 2-0 nella serie, e Montegranaro Milano, che sono sull'1-1. E nell'NBA, proprio un ex bandiera di Milano, Mike D'Antoni, dice addio a Phoenix e diventa il nuovo tecnico di New York. Sentiamolo a Gazzetta.it. Ho molta fortuna nella mia vita, allora spero che continui con la fortuna. Sarà un lavoro molto difficile, ma un lavoro che io sono contento e sono pronto per farlo. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.